Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. C'è un'insidia silenziosa che può mettere a rischio la sicurezza di chi guida e di chiunque percorra strade e autostrade. Il colpo di sonno provoca infatti un incidente stradale su 5. Causa di questi pericolosi episodi di sonnolenza è molto spesso la sindrome da apnee istruttive notturne, conosciuta anche come OSAS. Secondo uno studio appena pubblicato su Sleep, una delle più prestigiose riviste scientifiche sul tema del sonno e realizzata da un'equipe di studio italiana, le apnee notturne raddoppiano il rischio di infortuni sul lavoro. L'OSAS da quest'anno è stata inserita nella lista delle patologie che possono mettere a rischio rilascio o rinnovo delle patenti di guida. Per promuovere la prevenzione e la sicurezza alla guida si è svolto questa settimana a Roma il primo convegno sul tema, un evento organizzato dall'Albo degli Autotrasportatori in collaborazione con l'Università di Genova. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. In realtà oggi ci occupiamo di un argomento che riguarda un po' tutti i nostri ascoltatori e non solo automobilisti e autotrasportatori, perché parliamo di patologie del sonno. Sono patologie che colpiscono un po' tutti, con delle percentuali davvero importanti, addirittura si parla del 30% di penetrazione all'interno della società e possono avere delle conseguenze importanti. Di queste conseguenze parliamo oggi in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Sergio Garbarino, del Centro di Medicina del Sonno dell'Università di Genova. Professor Garbarino, lei sta studiando questo fenomeno ormai già da diverso tempo. Ci può spiegare molto semplicemente di che cosa si tratta, ma soprattutto come possiamo in qualche modo accorgerci di avere questo tipo di problema? Allora, guardi, la sindrome delle apnee croniche ostruttive del sonno, definite OSAS, OSA, che dir si voglia, sono una patologia molto diffusa. Faccia conto che è forse per proporzioni, diciamo, epidemiologiche di frequenza superiore allo stesso diabete, quindi parliamo di diversi milioni di persone probabilmente affette, e oggi, a tutt'oggi in Italia ne sono diagnosticate solo circa 150.000. Questo è già dalla dimensione del problema. È una patologia che porta dell'apnea, prima russamento, poi apnea durante il sonno, e ha tutta una serie di disturbi, ma quello che in questo momento interessa più a noi è l'eccessiva sonnolenza che provoca durante la giornata e quindi anche durante l'attività lavorativa e soprattutto alla guida o in attività pericolose. Questo è il problema centrale, per cui questa patologia è molto delicata nell'ambito del lavoro, e oserei dire che tra tutte le patologie di cui un autotrasportatore può essere affetto è sicuramente quella più pericolosa. Nicola Magnavita, docente di medicina del lavoro al Policlinico Gemelli di Roma. Il professor Garbarino parlava di complicazioni importanti per il mondo del lavoro. Ecco, esistono degli studi o dei riferimenti per capire qual è l'impatto di questo proprio tipo di patologia? Insieme con Garbarino abbiamo fatto da poco una meta-analisi, quindi abbiamo messo insieme tutti gli studi fatti nel mondo sugli infortuni sul lavoro, e abbiamo visto che il fatto di soffrire di queste apnee notturne, questo russamento che poi interrompe il sonno, poi è una cosa molto comune, raddoppia il rischio di infortuni sul lavoro e addirittura tende a triplicarlo nei conduttori di mezzi. Quindi questo significa centinaia di migliaia di infortuni ogni anno solo in Italia, legati al fatto che la persona non ben riposata a un certo punto ha una momentanea perdita della capacità della coscienza, della capacità di concentrazione, e questo può avere conseguenze fatali. Professor Garbarino, lei prima faceva qualche cenno ai sintomi di questo tipo di patologia. Abbiamo citato una classica, il russamento, ma ce ne sono anche altri segnali che noi possiamo percepire in qualche modo? Inizia col russamento, che di per sé non è un problema se non porta alla apnea, cioè alla chiusura, all'interruzione del respiro, che si può fare sempre più frequente durante la notte e più lunga. Può arrivare anche a un minuto e mezzo di durata di questa apnea, è un numero molto elevato, anche oltre 30 all'ora. L'altro sintomo è la sonnolenza diurna, che avevamo detto prima, molto importante, e poi se ne aggiungono altri sintomi che sono sintomi soprattutto legati alla funzionalità dei principali nostri organi. E un po' l'abbiamo accennato prima, cioè la possibilità che si instauri un'ipertensione arteriosa, delle aritmie, e la possibilità che si instauri più precocemente, velocemente, un diabete. Lei pensi che l'associazione tra questi soggetti in stato avanzato di malattia, cioè malattia conclamata dopo qualche anno, nell'85% dei casi, nella maggior parte di studi della letteratura, ultimi dimostrano che si associano a questa patologia, cioè diabete e OSAS vanno insieme. Quindi è evidente che questa patologia, oltre ad essere un problema per la sicurezza stradale, rappresenta un problema di, diciamo così, salute pubblica. Quindi lei capisce bene che noi oggi stiamo parlando sì dell'aspetto di prevenzione degli incidenti stradali dovuti a una riduzione del livello di vigilanza a cui faceva accenno prima l'amico professor Magnavita, che poi può esplodere nell'epifenomeno che è il colpo di sonno, ma attenzione, non focalizziamoci troppo sul colpo di sonno. Come giustamente dicevamo, basta una riduzione della vigilanza, tante volte poco avvertita, una disattenzione, quello che in molto maniera banale definiamo come distrazione, e alla base quasi sempre noi troviamo che siamo dei deprivati cronici di sonno. Talvolta questa patologia, ahimè, si associano anche errati stili di vita. Magnavita, cosa si potrebbe fare sui luoghi di lavoro per prevenire questo fenomeno? Noi fra un po' parleremo delle iniziative specifiche sul mondo dell'autotrasporto, sì. Parleremo di un convegno che è stato organizzato giovedì scorso a Roma, ma in generale sui luoghi di lavoro. Io innanzitutto farei una cosa molto semplice, domandare ai lavoratori come dormono, perché spesso, sai, il medico del lavoro si focalizza giustamente sui problemi legati all'ambiente fisico, chimico, biologico del lavoro e tralascia quello che avviene al di fuori del lavoro. Questo può essere un errore in alcuni casi. Tra l'altro la stessa persona non fa molto caso, noi facciamo la nostra vita tutti i giorni con tutta una serie di preoccupazioni, di cose, non pensiamo se la notte abbiamo riposato e quanto. Quando ci svegliamo troppo stanchi e c'è sotto qualcosa, vuol dire che anche se nessuno ci ha detto che abbiamo russato, certo non abbiamo riposato bene. Allora, cominciare a chiedere a tutti i lavoratori, noi ogni anno in Italia visitiamo almeno 10 milioni di persone, allora chiedere a queste persone come dormono, e non è una cosa slegata dal lavoro, è una cosa molto legata al lavoro, perché scopriremo certamente che ci sono alcuni milioni, ma parliamo di milioni di persone che hanno questo problema e non lo sanno, e possono quindi, o se sono sfortunati, avere un incidente subito, se sono apparentemente fortunati, ammalarsi, perché questa patologia favorisce l'arteriosclerosi, favorisce la malattia cardiovascolare, cioè porta a quella che oggi per noi è la principale causa di morte nei paesi occidentali. Professor Garbanino, questa situazione ha spinto il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Studi di Genova, a lanciare un programma di prevenzione per il mondo dell'autotrasporto, che dovrebbe portare da qui alle prossime settimane ad uno screening che coinvolgerà circa 10.000 autotrasportatori italiani. Ci spiega di che cosa si tratta? Guardi, devo dire che siamo rimasti sorpresi della sensibilità e della anche lungimiranza da parte del Comitato e ovviamente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, perché questa si tratta, io credo, a memoria mia, proprio anche a livello internazionale e europeo, come la prima iniziativa che parte da un ente statale e quindi da un ente ministeriale. Credo che sia un ottimo, perché la prevenzione De Donato è l'arma vincente, sicuramente, perché prima di tutto parte dalla formazione e informazione del lavoratore, quello che diceva prima il professor Magnavita, cioè deve sapere una persona eventualmente quali possono essere disturbi, anche se spesso vengono riportati dai cosiddetti partner di letto, cioè l'usamento, le apnee, eccetera, eccetera. Però spesso il paziente con questa malattia non è consapevole, diventa sonnolento, piano piano si addormenta anche parlando o mangiando e non se ne rende conto. Quindi molto importante l'aspetto di informazione sull'individuo, sul lavoratore. Secondo punto di questo progetto che noi abbiamo programmato e porteremo avanti in questi mesi con il comitato è appunto lo screening, cioè andare a vedere qual è la prevalenza di questa patologia insieme ad altre variabili importanti come quelle ad esempio della qualità della vita. Direi che anche da un punto di vista scientifico, per la sua numerosità, ma anche per quello che andremo a cercare, credo che sia uno degli studi più importanti mai fatti in questo settore, e questo va al plauso da parte di noi ricercatori, dove finalmente riusciamo a trovare un punto, diciamo così, di unione, consapevoli forse tutte e due che senza dati scientifici, senza evidenze scientifiche forti, è difficile fare anche delle strategie preventive efficaci e concrete. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.